Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Emons Audiolibri. Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, terzo volume, La parte di Guermont, legge Yaya Forte, traduzione di Giovanni Raboni. La parte di Guermont, primo. Il pigolio mattutino degli uccelli sembrava insipido a Françoise. La minima parola pronunciata dalle donne la faceva sussultare. Disturbata da ogni loro passo, se ne chiedeva il perché. Avevamo traslocato. Non che al sesto piano della nostra vecchia abitazione i domestici si muovessero meno, ma quelli li conosceva. I loro andirivieni se li era fatti amici. Adesso, persino al silenzio, prestava un'attenzione dolorosa. E poiché il nostro nuovo quartiere pareva tanto calmo quant'era rumoroso il boulevard sul quale davano prima le nostre finestre, il canto d'un passante, nitido anche quando, da lontano, giunge fievole come un motivo d'orchestra, faceva venire le lacrime agli occhi a Françoise in esilio. Così, se mi ero preso gioco di lei, che desolata di dover lasciare uno stabile dove eravamo tanto stimati dappertutto, aveva fatto i bagagli piangendo, secondo il rituale di Combray, e proclamando la superiorità di quella in cui avevamo abitato su tutte le case possibili, in compenso mi riavvicinai alla nostra vecchia domestica quando mi accorsi, io, portato ad assimilare le cose nuove con difficoltà, pari alla disinvoltura con cui abbandonavo le vecchie, che installarsi in una casa senza aver ricevuto dal portiere, il quale non ci conosceva ancora, i segni di considerazione necessari al suo buon nutrimento morale, l'aveva sprofondata in uno stato prossimo al deperimento. Lei sola poteva capirmi, non certo il suo giovane aiutante, per il quale, estraneo com'era al clima di Combray, andare ad abitare in una casa nuova, in un altro quartiere, era come prendersi una vacanza in cui la novità delle cose produceva lo stesso senso di riposo che deriva dal viaggiare. Si credeva in campagna e un raffreddore di testa gli diede, come un colpo d'aria preso sul treno in uno scompartimento dal finestrino mal chiuso, l'impressione deliziosa d'aver visto un po' di mondo. Ad ogni starnuto si rallegrava d'aver trovato un posto così elegante dopo aver tanto desiderato dei padroni che viaggiassero molto. Perciò, ignorandolo, andai a colpo sicuro da Françoise. E lei, siccome avevo riso delle sue lacrime per un distacco che mi aveva lasciato invece indifferente, si mostrò glaciale, proprio perché la condivideva di fronte alla mia tristezza. L'egoismo delle persone nervose si accresce con la loro pretesa sensibilità. Non possono sopportare che qualcun altro esibisca i malesseri cui dedicano in se stessi un'attenzione sempre più intensa. Françoise, che non si lasciava sfuggire il più lieve dei suoi, si voltava dall'altra parte se ero io a soffrire per non darmi la soddisfazione di veder compatita o semplicemente notata la mia sofferenza. Così fece anche quando tentai di parlarle della nuova casa. D'altronde, poiché due giorni dopo le era toccato d'andare a cercare dei vestiti rimasti per una dimenticanza nell'appartamento sgomberato, Françoise, mentre io avevo ancora, in conseguenza del trasloco, un po' di temperatura e come un serpente boa che abbia appena finito di inghiottire un bue, mi sentivo penosamente gonfio e deforme per via di una lunga cassapanca che la mia vista doveva digerire, tornò dichiarando, con infedeltà affatto femminile, che nel nostro vecchio boulevard L'era parso di soffocare, che strada facendo si era sentita tutta scombussolata, che mai aveva visto scale tanto scomode e che non sarebbe tornata ad abitare laggiù nemmeno se, ipotesi gratuite, le avessero regalato un impero o promesso dei milioni, e che tutto, vale a dire quel che concerneva cucina e corridoi, era nella nostra nuova casa incomparabilmente più ben messo. Ora è tempo di dire che questa nuova casa, dove eravamo venuti ad abitare perché la nonna, in non buona salute, ragione che con lei c'eravamo ben guardati dall'addurre, aveva bisogno di aria più pura, era un appartamento situato in una dépendance di Palazzo Guermantes. All'età nella quale i nomi, offrendoci l'immagine dell'inconoscibile che vi abbiamo infuso, nel momento stesso in cui designano per noi anche un luogo reale, ci costringono in tal modo a identificare l'uno con l'altro, tanto che ci rechiamo in una città alla ricerca di un'anima di cui questa non può certo costituire l'involucro, ma che non è più in nostro potere espellere dal suo nome, non è soltanto alle città e ai fiumi che si attribuiscono, come dipinti allegorici, un'individualità. Non è soltanto l'universo fisico che essi screziano di differenze e popolano di meraviglioso, ma anche l'universo sociale. Ogni castello, allora, ogni famoso palazzo o residenza ha la sua regina o la sua fata, così come le foreste hanno i loro geni e le loro divinità le acque. A volte la fata, nascosta in fondo al proprio nome, si trasforma seguendo l'evolversi della nostra immaginazione che la nutre. Allo stesso modo, l'atmosfera nella quale Madame de Guermantes esisteva dentro di me cominciava, dopo essere stata per anni nient'altro che il riflesso di una lastra di lanterna magica o d'una vetrata di chiesa, a spegnere i suoi colori quando ben altri sogni l'intrisero della schiumosa umidità dei torrenti. Tuttavia, se ci accostiamo alla persona reale cui corrisponde il suo nome, la fata deperisce, giacché quella persona, allora, il nome comincia a rifletterla, e lei non c'è niente della fata. Questa può rinascere se ci allontaniamo da quella, ma se le restiamo accanto, la fata muore definitivamente e con lei il nome. Come quella famiglia Lusignano che avrebbe dovuto estinguersi il giorno in cui fosse scomparsa la fata Melusina. Allora il nome, sotto le cui successive ridipinture potremmo finire col trovare il bel ritratto originario d'una straniera mai vista prima, si riduce a una semplice carta fotografica d'identità alla quale facciamo riferimento per sapere se conosciamo, se dobbiamo o no salutare una persona di passaggio. Ma basta che una sensazione di un anno lontano, simile a quegli strumenti musicali capaci di conservare, come li avessero registrati, la sonorità e lo stile dei vari artisti che li suonarono, consenta alla nostra memoria di farci riudire quel nome con il timbro particolare con cui soffriva allora al nostro orecchio, ed ecco che, immutato in apparenza quel nome, avvertiamo tutta la distanza fra l'uno e l'altro dei sogni di cui le sue sillabe identiche sono state per noi, in tempi successivi, portatrici. Per un attimo, dal riascoltato accento che esso aveva in quella certa, remota primavera, possiamo estrarre, come dai tubetti utilizzati per dipingere, la sfumatura giusta, obliata, misteriosa e fragrante dei giorni che c'era parso di ricordare quando, come i cattivi pittori, davamo al nostro passato disteso per intero su un'unica tela le tonalità convenzionali e tutte simili fra loro della memoria volontaria. Ora, ciascuno dei momenti che lo composero impiegava invece in un'armonia senza pari, per una creazione originale, i colori di quel tempo che noi non conosciamo più, e che, ad esempio, ancora mi rapiscono all'improvviso, se per combinazione, riacquistando per un istante, dopo tanti anni, il suono, oggi così diverso, con cui giungeva al mio orecchio nel giorno del matrimonio di Mademoiselle Percepied, il nome Guermantes mi restituisce quel mauve così dolce, troppo brillante, troppo nuovo, simile a una pervinca inattingibile e rifiorita, i suoi occhi soleggiati da un azzurro sorriso. Ed è anche, il nome Guermantes d'allora, come uno di quei palloncini in cui è stato immesso dell'ossigeno o un altro gas. Quando riesco a farlo scoppiare, a farne uscire il contenuto, respiro l'aria di Combray in quell'anno, in quel giorno, mista a un profumo di biancospini trasportato dal vento che veniva dall'angolo della piazza ad annunciare la pioggia e alternativamente faceva sparire il sole o lasciava che si stendesse sul tappeto di lana rossa della sacrestia, rivestendolo d'un incarnato acceso, quasi roseo, da geranio, e di quella dolcezza che si potrebbe dire wagneriana nell'esultanza, grazie alla quale le feste conservano tanta nobiltà. Ma anche, prescindendo da questi rari minuti, durante i quali sentiamo l'entità originale trasalire bruscamente e riprendere la sua forma e la sua cesellatura all'interno di sillabe ormai morte, se nel turbine vertiginoso della vita quotidiana, dove si sono ridotti a un'utilità puramente pratica, i nomi hanno perduto ogni colore, come una trottola prismatica che brilla così vorticosamente da sembrarci grigia, in compenso, quando nelle nostre fantasticherie, nelle nostre meditazioni, ci sforziamo per recuperare il passato, di rallentare, di sospendere il moto perpetuo che ci trascina, vediamo a poco riaffiorare, giustapposti ma perfettamente distinti l'uno dall'altro, i colori che un medesimo nome ci ha via via presentati nel corso della nostra esistenza.